per il lavoro che c'è stato, in effetti un po' di vacanza io l'ho già presa. Visitata due volte, per cui sì, in effetti mi sembrava un sacco di tempo, però esatto, poi ci vuole molto tempo per vederla. Infatti. Per cui anche l'esperienza sembra più lunga. Sì, abbiamo aperto questa mostra che è dedicata alla figura di Von Rainer, che è una danzatrice, coreografa, regista, teorica e poeta statunitense di origini italiane, che oggi ha 88 anni, quindi è nata a San Francisco nel 34, e questa mostra cerca di raccontarla in modo completo, nel senso, quindi raccontando la sua attività da coreografa, soprattutto quella tra gli anni 60 e gli anni 70, e poi ha come cuore centrale quella un racconto sull'attività cinematografica, per cui abbiamo la possibilità di vedere tutti i film che sono stati realizzati dai Von Rainer tra il 72 e il 96, e anche c'è la possibilità di capire, insomma spero che si capisca visitando la mostra, qual è un po' le motivazioni e gli elementi di continuità che hanno portato i Von Rainer a un certo punto della sua carriera nel 72 a dedicarsi all'attività cinematografica. Quindi c'è una parte dedicata alle sperimentazioni video degli anni 60, che era una parte fondamentale delle sue performance, e quindi cerco di raccontare come l'impostazione intermediale delle sue performance, quindi l'ausilio non solo di corpi sul palco, ma anche di oggetti di scena, parole, registrazioni, immagini in movimento e immagini proiettate, andavano appunto a formare la performance e quindi anticipavano un po' un'idea di regia, no? Che poi lei applica al cinema. Un altro elemento di continuità è quello dell'impegno politico, nel senso che già negli anni 70 i Von Rainer prende una posizione contro la guerra in Vietnam, quindi realizza una serie di coreografie proprio sposando appunto la causa degli attivisti contro la guerra in Vietnam, e questo attivismo torna nell'attività cinematografica soprattutto grazie all'adesione al movimento femminista che abbraccia appunto alla metà degli anni 70. Quindi i film hanno come focus quello di raccontare il modo in cui viene rappresentata la donna nel cinema hollywoodiano, cercano di decostruire questa immagine e di proporne una nuova, e soprattutto di porre il pubblico in una posizione critica, no? Di emancipazione grazie appunto alla visione del film. Infatti io ho trovato la parte teorica, la parte del manifesto soprattutto particolarmente stimolante. Esatto, cioè, poi c'è questa parte che ho voluto inserire in mostra proprio per dare un'idea di come Von Rainer non è solo un artista, ma è stata proprio una teorica della danza, e quindi c'è una sala che è dedicata ai due testi che sono stati più iconici, che sono il No Manifesto, quindi questo manifesto dei no che viene scritto nel 65, dove Von Rainer fa una sorta di considerazioni contro l'industria creativa hollywoodiana o comunque statunitense degli anni 60, e quindi promuove un no allo spettacolo, no alla virtuosità, quindi no alla esposizione delle virtù tecniche del danzatore, no all'ammagliamento del pubblico tramite appunto le capacità del pubblico, e quindi cerca di portare l'attenzione verso il corpo del performer inteso proprio nella sua fisicità totale, no? Quindi i movimenti della danza di Von Rainer trovano ispirazione nella vita quotidiana, quindi nel movimento ordinario, e cercano di restituire il corpo nella sua realtà più totale, quindi non c'è una finzione che copre il corpo, ma il corpo si presenta così com'è nella sua appunto inderogabile materialità. E quindi il politico di questo corpo è il fatto di non ammagliare il pubblico con una finta narrazione della realtà, ma fargliela vedere di fronte, e si parte dai corpi semplici dei performer per poi arrivare a tutta un'altra impostazione cinematografica che però sostiene sempre questa avversione verso il potere ammagliante della narrazione, no? Che in quel momento era anche la narrazione di una guerra, che era quella in Vietnam, per raccontare i fatti come vuoi tu, Sembrano passati migliaia di anni, veramente. Anche se gli strumenti, diciamo, narrativi sono sempre gli stessi, certo. Per cui pensiamo alle fake news, no? Ci Infatti. Raccontano la verità, ma in realtà non è vera, ecco, quindi. E, no, fra l'altro devo dire che una parte che probabilmente non è voluta, che però secondo me funziona benissimo, è proprio questo aspetto vintage di quasi tutti i filmati che ci sono in mostra, no? Cioè, a sì. partire dal primo, che è una documentazione della performance che l'ha resa più nota, che è Trio A, che è stato pensato nel 66 e poi filmato nel 78. Quindi il film, cioè il video che abbiamo è del 78, sono tutti materiali ovviamente degli anni 60, mm-hmm. per cui diciamo che c'è un dominante bianco e nero per certo. tutta la mostra. Poi ho un po' accentuato questa vintage con questo impianto audio che c'è nella sala delle ciminiere, dove ci sono questi due amplificatori, queste due casse che sono Altec Voice of Theater, che erano le casse che venivano usate nei cinema americani ma anche italiani tra gli anni 70 e gli anni 80, 60 e 80, mm-hmm. e che hanno la capacità quindi di ridarci il suono dei film così come era stato pensato dall'autrice nel momento in cui è stato registrato, e hanno anche questa capacità di restituire una materialità alla voce incredibile. E quindi se si viene in mostra è nel buio, ma cercate di guardare queste casse che sono molto affascinanti come sistema di diffusione audio. Quindi c'è stata una ricerca anche nei supporti, di cercare di ricostruire anche in modo un po' filologico le scelte di Von Rainer ai tempi, ecco. No, hai fatto un lavoro spettacolare per quel che mi riguarda. Grazie. Ti do una pausa e sì. vi faccio ascoltare, perché i miei ascoltatori affezionati sanno che io sono un super fan di Jenny Owen Youngs, ed è uscito un suo nuovo singolo che si intitola Avalanche. Allora adesso ve lo faccio sentire, così intanto ti riposi, perché non abbiamo finito con okay. Von Rainer, naturalmente. You do. realtà Jenny Owen Young aveva fatto un disco anche quest'inverno, tipo un EP, però era solo musicale, e io sono totalmente innamorato della sua voce, per cui non l'ho neanche ascoltato praticamente, perché una che ha una voce così, come fa a fare un disco solo musicale? È una cosa che non ho capito. Infatti, vabbè, cavoli suoi, questo è il primo pezzo di un nuovo LP che uscirà, se non sbaglio, a settembre-ottobre, si intitola Avalanche. Ma torniamo ai nostri ospiti in studio. Stavamo parlando con Caterina Molteni, curatrice della mostra Yvonne Rainer, che ha un sottotitolo: Words, Dances, Films. Perché si cerca appunto di raccontare le parole, le coreografie e i film di Yvonne Rainer. Parole, perché oltre a essere stata una teorica della danza, come dicevamo prima, tra gli anni 90 e 2000 si dedica alla poesia, e quindi c'è una parte finale molto essenziale in cui c'è una selezione di 10 poesie. Sì, che fra l'altro sono bellissime. Sono molto belle, alcune tra l'altro legate a delle opere in mostra, per cui ce n'è per esempio una dedicata a Trio A, che è la prima coreografia che si vede entrando, mm-hmm. Così come appunto anche poesie molto semplici che appunto si intitolano I Love You, però poi se le leggi hanno tutta una loro profondità, oppure una dedicata all'orgasmo, cioè sono molto... Cioè, tostissima lei in realtà. Sì, lei è un personaggio veramente interessante. Ha scritto questo libro molto bello che consiglio, che si chiama The Feelings Are Facts e Life, che è appunto la sua vita, è un'autobiografia dove racconta tutta la sua vita dall'infanzia ad oggi. Che fra l'altro, anche solo il titolo, I sentimenti sono fatti. Bellissimo, secondo me è particolare in questo momento storico. Era già il titolo di una mostra, esatto. Però ma poi in questo momento storico è veramente molto azzeccato, nel senso che comunque, vabbè, i filosofi l'hanno sempre detto, però la nostra realtà, cioè la realtà che noi viviamo, non è la realtà reale, ma è la realtà che noi sentiamo, per cui infatti è una frase che le dice il suo psicologo durante un periodo molto pesante nella sua vita nel 71, che poi segna anche un po' il passaggio verso l'attività cinematografica, e lei ha una forte depressione e quindi il suo psicologo le fa riconoscere che deve guardare in faccia il suo sentire e ripartire da lì, quindi non nasconderlo ma riconoscerlo come un fatto, e infatti la psicologia è un focus molto importante dei suoi film, quindi le donne vengono raccontate attraverso il modo in cui si sentono nella relazione con l'uomo, per cui soprattutto i primi film raccontano un po' le dinamiche di potere che si innescano tra l'uomo e la donna, e il modo in cui la donna spesso nei film non viene raccontata, nel modo in cui soffre o il modo in cui in realtà, cioè la sua sofferenza viene un po' raccontata attraverso dei cliché, no? La donna che si strugge per amore, ma non viene raccontato il modo in cui alcuni atteggiamenti dell'uomo portano a un indebolimento, no? Dell'autostima di una donna. E quindi è molto bello come lei racconta tutta in modo quasi psicoanalitico queste mm-hmm. donne, e cerca di evitare qualsiasi forma di sentimentalismo, perché il sentimentalismo nasconde la verità, no? Perché intrattiene il pubblico. Invece lei è molto seria, questa voce fuori campo che ti racconta tutto, però con questo escamotage in realtà ti fa vedere le cose come sono, ecco. No, ma infatti c'è una vena di seria ironia in tutta la mostra che devo dire che a me piace tantissimo proprio, cioè la trovo veramente un cinismo, esatto, un cinismo che però ha questa vena di leggera ironia, perché in effetti è una sorta di anche alcuni atteggiamenti all'interno di questi film, dove vedi questo uomo che è vestito giacca e cravatta con i baffi, capito? Sì. Anni 70, che si comporta davvero uomo, per cui una merda totale rispetto a queste ragazze che invece poi non reagiscono oppure reagiscono in maniera veramente minimale, sì. Però è cioè tostissima roba, sì, boh, vabbè, film, io non la conoscevo per niente, sono, per cui sono, per me è stata molto vari, per cui una scoperta notevole. Sì, no, infatti spero che appunto il pubblico sia incoraggiato a venire, perché è una scoperta, sì. E poi è una artista che ha cambiato la storia dell'arte comunque, quindi quando incontri artisti di questo genere è sempre una scoperta, perché certo. Comunque capisci anche dei passaggi della storia dell'arte che ti sei perso, no? Come il passaggio dalla danza alla performance, sì. Cioè ce lo raccontano sempre tramite i Fluxus, no? Sì. E invece c'è stata una rivoluzione dentro la danza che ha portato anche a anticipare delle cose che poi sono state sviluppate perché nella performance. In effetti la mia prima domanda era proprio quella a te che ti ho fatto cioè due settimane fa, ovvero come mai portare una coreografa e cineasta all'interno di un museo d'arte contemporanea? Perché ha fortemente condizionato lo sviluppo, esatto, dell'arte di oggi. Dell'arte performativa. Perché quando di vediamo, oggi, certo. Quando entriamo dentro la mostra e vediamo il video della sua prima della performance Trio A, cioè, siamo molto abituati visivamente a quel tipo di abbigliamento, a quel tipo di movimento, ma in realtà allora è stato rivoluzionario, anche certo. Solo andare in scena con gli abiti delle prove, sì. E con le scarpe era una cosa improbabile. Invece la danza moderna era un certo abito, doveva sottolineare la gamba, far vedere quanto riuscivi a estenderla, il piede nudo era nudo perché appunto doveva sottolineare la forma del corpo, e invece lei danzava con i leggings o la tuta con cui faceva le prove, quindi è un abbigliamento che adesso è normale. Esatto, cioè paradossalmente, capito, ha influenzato anche amici di Maria De Filippi, anche, questa, esatto. questa tipologia, che è un po' il problema, cioè, vabbè, adesso saltando di palo in frasca, ma è un po' il problema dell'arte contemporanea oggi, ovvero che il fatto che il linguaggio dell'arte contemporanea è stato assimilato dalla realtà così in maniera così naturale, sì. che gli artisti non sanno più che cosa inventarsi, no? Perché esatto. Oppure non sanno da dove arriva quello che fa, cioè quello che fanno, no? E quindi secondo me mostre di questo tipo aiutano anche, certo. A capire le origini di alcuni linguaggi, per anche l'intermedialità, no? Il fatto che ora siamo abituati che un'opera sia composta da corpo, video, certo. Parola, invece allora era abbastanza rivoluzionario mettere dei materassi in scena. Infatti, e ballarci sopra. Devo fare un monito agli artisti contemporanei bolognesi che non potete non andare a vedere questa mostra. Venite, assolutamente. Vi farò anche una visita guidata. Se addirittura, occhio a promettere le robe che poi ti tocca di mantenerle. Esatto. Detto questo, il nostro Marco Roma, che è il fantastico, il nostro cantante, colui che tutti i giorni ci manda un vocale cantato, probabilmente è in vacanza, perché l'ultimo che ci ha mandato è stato venerdì scorso, ma venerdì scorso non c'era Coxo Spaziale, dunque ce lo possiamo ascoltare. Sentiamo cosa ci ha cantato venerdì. I rotoli del libro. Scusate, devo tornare indietro perché eccolo qua. Ripartiamo. Buongiorno. Buongiorno. Tra i rotoli del libro c'era scritto dell'arcobaleno, che era il più bello, perché lo dice Marco Roma. Io sono Marco Roma. Buongiorno a tutti voi. E buongiorno anche a te. Questo era Marco Roma di venerdì scorso. Naturalmente Marco, se sei in vacanza va benissimo così. Se invece lunedì prossimo ci vuoi mandare un vocale apposta per Coxo Spaziale, il numero è sempre lo stesso, 333 180 94 94, dove naturalmente chiunque di voi può intervenire anche cantando nei vocali. Cosa dici, Maria Grazia, ce lo mandi un vocale cantato? Ah, bello, non lo sapevo. Ah, non lo sapevo. Adesso manderò un vocale cantato. Grande. Ma manda un vocale cantato. Dunque sono le 20:26 e invece abbiamo anche con noi qua Battista. Chi è Battista? Chi ce lo descrive? Ce lo descrive lui stesso oppure ce lo descrivi tu, Maria Grazia? Dai, dico due parole io, poi di due parole parlare. Tu, dai. Battista l'ho conosciuto perché è un insegnante della nostra scuola di musica Jam Session. Certo, che una scuola. Vi abbiamo avuti ospiti. Siamo stati ospiti qui con il coro della scuola. Giusto. Che è il coro di periferia. Mm-hmm. E abbiamo conosciuto questo meraviglioso spazio. Grazie a Stefano che oggi ci ha ospitati, perché noi stiamo facendo durante quest'estate e poi riprenderemo anche da settembre una serie di concerti di artisti emergenti e Battista è uno di questi. I concerti della nostra associazione si tengono all'interno del piccolo auditorium della scuola, sono di giovani artisti e la maggior parte sono insegnanti della nostra scuola. Appunto Battista è un insegnante di canto e porterà insieme al suo chitarrista, giusto, sì. Lorenzo, un concerto di un'ora che magari se ci vuoi un pochino spiegare, così invitiamo la gente a venirti a ascoltare il prossimo il 21 luglio. Sì, ogni tanto ho queste mancanze di memoria. Allora, io sono un cantautore sardo principalmente, vivo a Bologna da 6 anni, appunto sono venuto dalla Sardegna per studiare musica. Non la cito la scuola, la cito. Ma se vuoi, la presso la Music Academy. Dipende da come. Sì, sì, non siamo sì, non in competizione. Okay. No. No, non lo so, ditemelo voi. Ho studiato la Music Academy, ho fatto 5 anni là, poi ho preso questo titolo. E adesso mi ha ospitato la Jam Session come insegnante, quindi diciamo che ho iniziato anche questa attività, oltre che quella da cantautore. Ok. E ho iniziato, in realtà non scrivo da tantissimo, scrivo dal 2017, infatti il concerto che proporrò il 21 seguirà un concept, seguirà un filo logico, che è quello di da come e perché ho iniziato quindi a scrivere. Quindi il primo brano tratterà di un'annata della mia vita, che è quella dell'adolescenza, e quindi nulla, quindi andrò per step, partirò dalla mia adolescenza, tutti i problemi d'amore che ancora abbiamo purtroppo. Ma come sono purtroppo? Sono sempre peggio, bello, capito, dai. Qua, mamma mia. L'adolescenza è infinita, capisci che qua è la fine. E per arrivare in realtà a un senso di maturità, sia nella scrittura che nella musica che nella vita principalmente. Ok. E quindi diciamo che seguirà questo concept qua, questo mio concerto. Ad accompagnarmi, come diceva Maria Grazia, c'è Lorenzo Duranti, che è stato un mio collega per anni alla Music Academy, adesso diciamo che mi segue, mi supporta e sopporta nei miei brani, diciamo che mi fa da braccio destro. Sì. E basta, come genere faccio pop italiano. Nulla okay, di... E adesso tra non molto ti andremo ad ascoltare, ma prima vi faccio ascoltare le pubblicità delle 7:30, sì, delle 7:30, delle 8:30, per cui subito dopo comunque andremo ad ascoltare o lasciamoci andare oppure solo un filtro, me lo dici poi tu. Okay. Cavoli, mi ero dimenticato di mettere il jingle per Caterina, il jingle arte contemporanea. Vabbè, dai, l'ho messo adesso, meglio tardi che mai. Invece adesso invece andiamo ad ascoltarci. Cosa vuoi sentire? Cosa ci facciamo sentire? Cosa ascoltiamo di... Beh, andiamo su Lasciamoci Andare, che è l'ultimo che è uscito. Così. Lasciamoci andare ed ascoltiamo Lasciamoci Andare di Battista. Così. A fingere un sorriso, siamo bravi tutti ad amarci per davvero un po' meno. Fare tutto bene per sembrar perfetti, ci si scorda tutto il resto di essere se stessi. Eppure un attimo ci penso, penso a quella volta in cui ti ho perso. Eppure un attimo ci pensi, pensi a quella volta in cui mi hai perso. Lasciamoci andare alla notte, a quell'attimo prima di un bacio. Lasciamoci andare alla notte, alla vita che ci è stata data. Lasciamoci andare alla notte, all'amore che ci salverà. Lasciamoci andare alla notte, agli sbagli di una vita intera. A lasciare tutto indietro e poi ricominciare. Se qualche volta può far bene pure il male, puoi gridare contro vento se ti può aiutare. Per rimuovere quei baci dati al mare. Eppure un attimo ci penso, penso a quella volta in cui ti ho perso. Eppure un attimo ci pensi, pensi a quella volta in cui mi hai perso. Lasciamoci andare alla notte, a quell'attimo prima di un bacio. Lasciamoci andare alla notte, alla vita che ci è stata data. Lasciamoci andare alla notte, all'amore che ci salverà. Lasciamoci andare alla notte, agli sbagli di una vita intera. Quell'attimo prima di un bacio, lasciamoci andare alla notte, alla vita che ci è stata data. Lasciamoci andare alla notte, all'amore che ci salverà. Lasciamoci andare alla notte, agli sbagli di una vita intera. Lasciamoci andare alla notte. Beh, fantastico. Grazie. Bello. Molto bello, grande. Io sono, cioè, come, in maniera molto cozy, super pop sì. Ahimè, sono super pop. Ma ci sta, io non ho assolutamente nulla contro il super pop. No, dicevo che io naturalmente vi ho invitato a scatola chiusa, cioè non ho neanche avuto così l'idea di andarti a sentire. No, in realtà ti avevo sentito in maniera così, che stavi DJando al Mambo Caffè, avevi fatto una serata, giusto? Quella serata che il chitarrista ti ha abbandonato. Ah sì, non è stata una serata da cancellare. Una serata da cancellare. Cioè, la peggiore, credo, in tutti questi mesi. Vabbè, dai, succedono anche. Sì. Parte della gavetta. Non deve essere facile fare il cantante pop nel 2023. No, perché ce ne sono troppi. Infatti, cioè, è un po' come fare l'artista visivo nel 2023. Cioè, sì. Hai 50.000 artisti con offerta e la domanda è veramente minima. Non si campa più a fare i cantanti adesso, immagino, no? Beh, no, infatti insegno. Esatto. diciamo che è difficile, sì. Sì, no, come la maggior parte degli artisti si insegna. Una volta era. Mi raccontava Alberto Camerini, che l'ho intervistato a Coxo Spaziale, che mi diceva che in realtà una volta era tutto completamente pilotato il mondo della musica. Cioè, quando lui ha scritto Rock and Roll Robot, la sua casa discografica al primo colpo ne ha stampate 2 milioni di copie, perché aveva già deciso che quello sarebbe stata una hit. E dunque, cioè, la casa discografica aveva il potere di metterlo in tutte le radio dalla mattina alla sera, certo. E dunque ne vendi 2 milioni di copie, ma la decisione è stata presa prima ancora che fossero vendute queste 2 milioni di copie, stampando 2 milioni di vinili, eccetera. Sono un po' cambiate le cose, no? Un po'. Anche perché adesso i cantanti, cioè, campano solo con i live, giusto? Sì, praticamente, sì, perché i CD non esistono più, cioè non esistono neanche fisicamente. Sì, infatti, anche chi è che compra la musica? Gli ascolti su Spotify o quant'altro sono veramente imbarazzanti. Sì, no, esatto. Come distribuzione, quindi. Infatti. No, infatti io devo dire che Spotify non lo apprezzo tanto, infatti non l'ho installato. Cioè non mi piace proprio l'idea di dare a qualcun altro i soldi che dovrei dare a te, no? Cioè, dei due preferisco rubarteli da YouTube e buonanotte. Che non so quanto sia etico anche quello. Anche se quest'anno leggevo che è stato l'anno in cui sono stati venduti più vinili da non so. Ah, certo. Dire che, ecco, io per esempio con Jenny Owen Youngs, quando c'è un disco nuovo, io lo compro in vinile, che poi fra l'altro facendotelo far arrivare dagli Stati Uniti, cioè costa tipo una sbaracca. Esatto, sì. Cioè costa tipo 34 dollari il vinile più altri 18 di tasse, che ok, va bene così. Però sì, è un casino, una roba. Sì, non è un grosso investimento. Però sono ritornati, cioè, per dire. No, certo. Sì, no, i vinili sono fantastici. E poi costano un casino. Costano un casino anche qua, insomma. Però sì, no, in effetti, cioè, il vinile ha un suo perché. Fra l'altro, i vinili qua in radio suonano benissimo. Cioè ci sono due piatti della Madonna che quando li senti in cuffia è una bella soddisfazione. Io non li porto mai perché faccio un po' fatica a fare tutto questo con anche il vinile, perché avevi il vinile con te, no? Hai stampato il vinile? No. Costa troppo e poi ci mettono tipo 6 mesi adesso a stampare un vinile, perché c'è il problema del vinile stesso, che non c'è la materia prima. Infatti anche Jenny Owen Youngs l'anno scorso, quando voleva stampare l'EP che aveva che aveva prodotto, tipo per, cioè, l'ha messo in prevendita, ma ha scritto che sarebbe arrivato dopo 6 mesi. Ah, mi è finita la musica di sottofondo nel frattempo. Ripartiamola e ascoltiamo anche solo un filtro, cosa dici? Ma dai, sì, faccio tipo una premessa. Fai una premessa. Che rende l'ascolto un po' più simpatico e curioso. Okay. In realtà diciamo che questo è uno dei testi più leggeri che ho scritto. Ok. E in realtà la parola caffè è una censura. Ok. Quindi lasciamo libera immaginazione. Cosa mai potrebbe essere? Il caffè. Il caffè. Ma andiamola a sentire, che sono super curioso. Solo un filtro. Battista. Segnatevi questo nome e andatelo a cercare su Spotify, anzi suonatelo e suonatelo, così gli arrivano quei 4 centesimi. Speriamo. Mi butto dal letto e penso di già, rifaccio il mio letto ed esco da qua. Solo un filtro mi aggiusterà. Parole mai dette che restano. Mi chiudo perplesso dentro ad un bar, solo lui mi capirà. Ma dai, dove vai? Non ti fermi, come stai? Ho bisogno di un caffè, ho bisogno di un altro caffè. Ho bisogno di un caffè senza di te. Ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ho bisogno di un altro come te. Ho bisogno di te senza un caffè. Ho bisogno di un caffè. Cammino di fretta e son già qua. Mi scordo la testa pure l'età. Questa vita mi ucciderà. Passano i giorni e penso che è proprio la gente che non fa per me. Ogni giorno diverso è. Ma dai, dove vai? Non ti fermi, come stai? Ho bisogno di un caffè, ho bisogno di un altro caffè. Ho bisogno di un caffè senza di te. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te, ho bisogno di un altro come te. Ho bisogno di te senza un caffè. Ho bisogno di un caffè. Ho bisogno di te, ho bisogno di un caffè, ho bisogno di te, ho bisogno di un caffè, ho bisogno di te, ho bisogno di un caffè, ho bisogno di te. Mi butto dal letto e penso di già, rifaccio il mio letto ed esco da qua, solo un filtro. Fantastico, grazie, ti applaudo. E, no, devo dire veramente fantastico. Vado a seguirti su YouTube. Grazie. Anche se vedo Artefix, che cos'è Artefix? No, perché il videoclip di questo brano era un'associazione senza scopo di lucro qua a Bologna, okay, dove promuovevano tutte le arti, diciamo. Ah, grande. Io ne facevo parte, quindi c'era la parte del videomaker, questa roba qui, e mi hanno detto: dai, ma perché non ti facciamo noi il video? Gratis, ovviamente. Gratis. E quindi ho detto: why not? Era appena uscito il brano, quindi ho detto: facciamolo. E quindi è pubblicato nella loro pagina, mentre Lasciamoci Andare sulla mia pagina. Ok, adesso vado a seguirti immediatamente. Grazie, sei gentilissimo. Eccolo qua, subscribe. Appena hai un nuovo subscriber su YouTube, visto che appunto Spotify io lo snobbo. No, fantastica, veramente. Mi incuriosisce tantissimo la difficoltà di essere un cantante pop un cantante pop nel giro bolognese. Com'è la scena musicale pop bolognese? In realtà il pop a Bologna è un po' meno, mm-hmm. cioè nel senso c'è più indie. Ah sì, certo. Sì, c'è principalmente ieri sera indie. Sono andato a vedere gli altri DB. Esatto. Ieri sera ho visto le altre DB al Cavaticcio. Gran concerto, fra l'altro, bravissimi. Non c'era tanta gente, ma perché era dentro alla manifestazione della CGIL. Ah, e siccome vabbè, io lo sapevo perché cioè, abito lì e dunque ci piscio il cane. E, no, ma però gran concerto, cioè, no, ci sono troppe cose a Bologna. No, la cosa incredibile è che appunto il programma come si chiama, Bologna Estate, sì. è densissimo, però dal 30 luglio in poi non c'è più niente, a parte il cinema, per cui noi poveri esseri umani che rimaniamo a Bologna anche nei primi d'agosto saremo così, staremo senza tutto. No, scusa, ti ho interrotto. No, figurati. Dicevamo com'è la faccenda nel mondo dell'arte, cioè nel mondo della musica pop bolognese. Vabbè, cioè indie ce n'è tantissima, esatto, ma voglio dire, che differenza c'è tra essere indie e essere te, per dire, cioè ok, tu sei super pop, però insomma non è che alcuni di sti qua a livello sono di poi... sound cambia, ok, cioè il sound ma anche un po' la scrittura cambia un po'. Poi in realtà la parola indie dovrebbe venire non così tanto dal sound, ma dal fatto che sei indipendente, tutte queste cose qua, che in realtà non ho, perché anche io sono indipendente, sì, cioè certo. sono sotto etichetta indipendente, quindi sono indipendente, punto. Certo. Però adesso come adesso, secondo me è più riconoscibile un brano indie dal sound, dal modo di cantare, dal testo, queste cose qua. Mm-hmm. Se una condizione è diventata uno stile, tipo. Esatto, sì. Ho capito. E dunque questo ciclo di Maria Grazia, raccontaci questo ciclo di concerti, che cosa avremo in saccoccia oltre a Battista, che c'è il 21. Yes. Allora il Jam Session Live fa parte di un programma della Scuola di Musica Jam Session che si chiama Progetto Integrato Musica, Intelligenze Multiple e Sviluppo Territoriale per l'anno 2023, ed è un progetto che sta approvato dalla regione, dalla regione Emilia Romagna. Quella che ci bippa oggi, ci ha bippato su tutti i cellulari, non so se è successo. Sì, io l'ho spento. Io l'ho spento, appena l'ho riacceso 2 minuti dopo mi è squillato comunque. Io invece ero volevo andare in Piazza Maggiore a fare il video di tutti questi. Ti ho pensato. Esatto, poi non l'ho fatto. In realtà sono andato a Decathlon a comprare uno zaino per mia figlia, e in effetti ha suonato a tutti e a me no. E io dico, ma no. Perché a me no? Giuro. Ma ha suonato due minuti dopo, non so perché. Probabilmente c'era la Digos che doveva controllare se andava bene far suonare anche il telefono di Pasquini. Sì, non so, lo so che Iliad non l'ha fatto suonare, per esempio. Ah, dai. Così. No, io c'ho Iliad. È suonato? Sì. Un'amica no. Ah, vedi? Ok. Quindi non funziona questo sistema d'allarme, Regione Emilia Romagna. Però funziona aver approvato e sostenuto il progetto Jam Session Live, che appunto fa parte di questo maxi progetto in cui ci sono anche le masterclass che si tengono sempre all'interno della nostra scuola. Mm-hmm. Abbiamo avuto a febbraio la masterclass, aprile la masterclass con Christian Meyer, il batterista di Elio e le Storie Tese. A maggio abbiamo avuto la masterclass di Serena Brancale, anche lei pianista e cantante che lavora con la Loop. E poi avremo Don Ross con una masterclass di chitarra l'11 novembre e Paolo Fresu il 13 novembre. Quindi Paolo Fresu sarà la scuola Jam Session. Qui è un programmone, ma me lo porti a Cox Spaziale, Paolo Fresu? Dai, ci proviamo. Ci proviamo, sarebbe prima bello. Magari della masterclass, così lo pubblicizziamo anche un po'. E insomma, Battista invece fa parte del programma Jam Session Live. Abbiamo avuto già lo scorso venerdì Alice Sacchi, una cantautrice anche lei di Modena. Anche lei fantastica, però io l'ho mancata. Poi abbiamo appunto Battista il 21 luglio, l'Icona Cluster il 22 settembre, i Blue Noise con Gio Allotta. Per cui anche voi vi fate un bel mese e mezzo di vacanza. Sì. Soprattutto perché questi artisti sono quasi tutti di fuori, non di Bologna. Certo. Adesso vedrete un attimino con i nomi che elencherò. E quindi sono spesso via. Certo. Non, purtroppo ad agosto siamo vuoti da live, siamo privi di live. Poi ci sono i Blue Noise, Leaked, The Great Escape, che è un gruppo che è arrivato dalla Germania con artisti tedeschi e italiani, di cui fa parte il nostro insegnante di batteria Riccardo Del Rico. Poi c'è la sottoscritta il 27 ottobre, concerto piano solo, sorpresa anche con la voce. Ti toccherà di tornare. Poi abbiamo Marco Baldoni il 3 novembre, Spiros Maresca, chitarra flamenco, il 17 novembre, Axel Band il 24 novembre, Baretti Guitar Duo che è il 15-12, quindi il 15 dicembre, chiudiamo con un duo di chitarra classica. Ah, bello. Quindi, perché voi fate qualunque tipo di musica, esatto, giusto? Sto dicendo quello, che noi, cioè, in jam session davvero... un po' per gli insegnanti, ma anche per gli utenti che abbiamo a scuola da noi, riusciamo davvero a spaziare un sacco nella musica. Mm-hmm. Abbiamo, infatti, in questo programma, per esempio, c'è anche Guglielmo Pagnozzi che terrà l'orchestra della scuola di musica Jam Session per il prossimo anno, e quindi farà anche delle esibizioni, che è più incentrata sul jazz, ma anche funky, queste robe qui. Poi abbiamo gli artisti che scrivono, quindi un cantautorato, abbiamo pop, abbiamo la classica dal piano a chitarra al flamenco, abbiamo davvero di tutto, quindi diciamo che gli utenti possono anche scegliere quale concerto venire ad ascoltare. Certo. Fantastico. Molto bene. E naturalmente, cavoli, sta finendo il tempo e non abbiamo ancora fatto questa cosa, ovvero l'angolo della menzione, che è naturalmente la rubrica in cui diciamo quello che succede questa settimana. Non succede tantissimo, però mercoledì 12 luglio alle 20:30 avremo Avemos del Voltar, poesie dal mondo, letture di Barbara Herzog, Eva Laudace, Julieta Manassas, Valentina De Muro con Graziella Sidoli, e questo è all'atelier Julieta Manassas in via Saragozza 107 punto A. Sempre mercoledì alle 21:15 abbiamo il 43° anniversario della strage di Ustica. Attorno al museo Ustica 42+1. Se non ci danno risposte, proviamo a cambiare le domande. Serata evento tra satira e memoria, condotta da Luca Bottura ed Enrico Bertolino, con la partecipazione straordinaria dello Stato Sociale e l'inaugurazione di una nuova opera di TV Boy. Partitura musicale Tiziano Cannas Aghedu e con Raffaele Kohler alla tromba, Tiziano Cannas al pianoforte, Giovanni Chierici alla batteria. Questo è davanti al museo di Ustica, che però non mi ricordo in che... Via di Saliceto. Sì, grazie. Aspettate un secondo che apro la porta ai nostri fantastici ospiti di Panta 80, che evidentemente oggi si sono dimenticati le chiavi. E per tornare, invece il 12 e il 13 luglio, ovvero mercoledì e giovedì, presso adiacenze abbiamo Dataset Fabric, un workshop con Alessandro Sambini, 2 giorni di esplorazione attiva dei meccanismi che sottendono la creazione di immagini attraverso l'intelligenza artificiale e di hackeraggio collettivo di questo processo, con la costruzione di un dataset che possa alimentare sistemi di generazione di immagini già esistenti. Il costo del workshop è 65 euro più tessera associativa AX da 8 euro. I posti disponibili sono 15, per cui se vi interessa andate su www.adiacenze.it e iscrivetevi subito. Mentre invece venerdì, sempre per il 43° anniversario della strage di Ustica, attorno al museo abbiamo un omaggio a Christian Boltanski, o si dice Boltanski, non lo so. In occasione della rassegna Attorno al museo, organizzata dall'Associazione Parenti delle Vittime nel 43° anniversario della strage di Ustica, nell'anniversario della morte dell'artista, una serata omaggio a Christian Boltanski introduce Annalisa Rimmaudo, curatrice del Dipartimento della Collezione Contemporanea del Centre Pompidou di Paris. Alle 20, questo succede credo tutte le sere, anche mercoledì, ci abbiamo anche la Memoria a tavola, i piatti della solidarietà di Cucine Popolari Bologna in collaborazione col Centro A Montanari per cui potete anche venire a mangiare. In occasione dell'evento, il Museo per la Memoria di Ustica osserva un'apertura straordinaria dalle 20 alle 23. Naturalmente su www.coxospaziale.blogspot.com trovate i link per andare a capire tutto quello che ho raccontato velocissimamente. Basta, finita così. E torniamo a voi, cos'altro ci dobbiamo raccontare? Ah vabbè, Yvonne Rainer non si può non andare a vedere. C'è qualcos'altro da aggiungere per questa mostra spettacolare? Sì, che c'è biglietto, che è un bel formato. Certo, è vero, ha un bel formato del biglietto, a parte che costa, cioè, costa molto poco. Per una mostra del genere costa molto poco. Vabbè, però è sempre un costo, per cui va certo bene. Però ricordiamo che è gratuito per tutti gli studenti fino a 25 anni, giusto? No. E poi, com'è? Sì, poi per gli under 25. Under 25 sì. È gratuito, sì. È gratuito per gli studenti delle accademie di belle arti, esatto, e delle scuole d'arte. E anche per i docenti. Esatto. Mm. E poi c'è la possibilità, acquistando il biglietto, di tornare una seconda volta proprio per vedere un altro film. Perché i film di Yvonne Rainer sono uno al giorno esatto, diverso. I sette ogni film. Giorno della settimana è associato a un film. Per cui se si viene il martedì si troverà sempre lo stesso film. Però guardando poi il programma e la brochure che vi consiglio di prendere per essere guidati meglio nella mostra, ci sono anche le sinossi dei film e quindi potete scegliere un altro giorno per tornare a visitare la mostra e vedere un altro film. E quindi al prezzo c'è... di 6 euro potete vedere due film, esatto, e tutta la mostra. Perché comunque c'è uno dei film che è in proiezione continua, giusto? E poi c'è il primo film che è Lives of Performers, che è tutti i giorni durante l'apertura della mostra. Infatti. Che è il film, diciamo, il primo film che ha fatto, dove è molto visibile il passaggio dalla danza al cinema, per cui era importante averlo sempre. Molto bene. Cosa dici, Maria Graffia? Accendo il microfono di tua sorella. Aggiungo solo una cosa, visto aggiungi. Tra gli appuntamenti mi sa che martedì era libero, quindi domani cosa succede? Quindi domani potete venire alla Lunetta Gamberini, al centro sociale, a ascoltare un po' di musica in orario aperitivo 19:30. Sono noi Lost in the Past, chitarra, voce e tastiera, repertorio anni 2000 riarrangiato in maniera un po' speciale. E domani al parco della Lunetta Gamberini dalle 19:30. Dalle 19:30. Fate un aperitivo. Ascoltate un po' di musica. Molto bene, perfetto. E dunque, così, io vi ringrazio tantissimo. A te, grazie. Maria Grazia Vincitorio, cofondatrice di Associazione Jam Session, la più grande scuola di musica di Bologna. La più grande scuola di musica del mondo. Grande. Naturalmente Battista, che sei stata una spettacolare sorpresa. Grazie. Di musica pop che adesso mi andrò ad ascoltare. Ma e dunque al tuo concerto sentiremo tutto un album intero? Come funziona? Sì, ci saranno 10 brani inediti. Ah, sì. Cavoli. Tra cui l'ultimo che uscirà quest'inverno con l'etichetta, quindi. Ok. Ah, dai. Sarà un mezzo spoiler, perché sarà tutto riarrangiato in realtà, e non sentirete tutto, okay, con arrangiamenti completi, però. Mm-hmm. Grande, questa è già un'ottima notizia, che il tuo prossimo singolo esce con un'etichetta e non. Esatto. E non autoprodotto in casa. E naturalmente ringraziamo Caterina Molteni, la magnifica curatrice del Mambo Museo d'Arte Moderna di Bologna, che appunto ha curato questa mostra super potente che non potete non venire a vedere. Yvonne Rainer, che si intitola di nuovo, ricordami? Words, Dances, Films. Parole, coreografie e film. Grande. Questo naturalmente era Coxo Spaziale e come al solito vi saluto con le parole del nostro fantastico direttore di radio, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Ah, ma sei arrivata, grande, è arrivata anche Massiel. Ciao. No, volevo dire due cose su questo pezzo, che in realtà fra un po' lo riconoscerete, che è un pezzo dei Dang Dang, una band romagnola la cui musica si traduce in un mix unico di influenze new wave, post-punk e art pop, plasmando un sound di respiro internazionale che li ha portati ad aprire per artisti del calibro di Proto Martyr, David Eugene Edwards e Alexander Hack. Di recente hanno pubblicato il proprio terzo album dal titolo Liar, nato e cresciuto durante la pandemia e completamente autoprodotto. anticipato dal singolo Filthy White Lies, di cui è disponibile una videoclip, e negli ultimi giorni è uscito anche il video firmato dal membro della band Matteo Castagnoli per il penultimo brano del disco che stiamo ascoltando in questo momento, che si intitola Vamos a la Playa, rivisitazioni chiare alternative del grande classico dei Righeira. Per cui ringraziamo, questo piacerà naturalmente anche ai nostri amici di, che vedo nello sfondo, nei nostri amici di Panta 80, e ringraziamo dunque Anna Laura Cazzola di Scintillarte, che ci ha spedito tutto il disco dei, tutto il disco dei Dang Dang. Adesso con calma me lo ascolto, poi magari se capita vengono anche in studio. Questa era Coxo Spaziale, grazie mille ancora, ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Grazie.